Letture di Radio 24. In Germania sono stati scoperti gli strumenti musicali più antichi del mondo. Risalgono al Paleolitico. Chissà che musica ascoltavano gli uomini primitivi. Di certo l'ascoltavano. La prova che le note erano già nell'aria in epoche antichissime arriva con la scoperta di quattro flauti. Si tratta dei più antichi strumenti mai ritrovati, risalenti al Paleolitico, quando l'uomo moderno colonizzava l'Europa. La location è nella caverna di Hohle Fels, sulle montagne Swabian, nel sud-ovest della Germania, zona dove i Sapiens si sarebbero insediati con un'ondata migratoria attraverso il corridoio del Danubio. Il flauto meglio conservato, quasi intatto, è di osso di grifone. Lavorato meticolosamente con uno strumento in pietra, è lungo 20 cm e ha un diametro di 8 mm. Ha 5 fori per le dita e superficie e struttura rivelano molti dettagli della manifattura. Per esempio i due intagli. Hanno forma a V all'estremità, dove, secondo i ricercatori, si soffiava. Lo scavo ha riportato alla luce anche i frammenti di altri due flauti in avorio. E un terzo strumento, dello stesso materiale, è emerso a 25 km di distanza. Ora il numero di flauti scoperti a partire dal 90 sale a 8. L'aspetto chiave è che questi strumenti provengono da tre siti differenti e sono di materiale diverso, cioè hanno richiesto un tipo di lavorazione di tecnica diverse, spiega Nicolas Conard, professore dell'Università di Tubinga e direttore degli scavi. Quest'ultimo ritrovamento, però, è il più interessante. Corrisponde all'Aurignaziano, il periodo fiorito in Europa durante il Paleolitico superiore, tra 40 e 10.000 anni fa. Anche lo scenario di ritrovamento è interessante. Sono stati portati alla luce numerosi resti di animali cacciati, frammenti di ossa bruciate e oggetti di pietra. Queste tracce messe insieme suggeriscono che gli abitanti della zona suonassero gli strumenti in diversi contesti sociali e culturali. Non è un caso che la caverna di Hohle Fels fosse già nota tra i paleontologi come una fucina artistica. Lo scorso maggio, infatti, lo stesso gruppo aveva annunciato la scoperta di una statuetta che rappresenta una figura femminile. Sarebbe, secondo alcune interpretazioni, la più antica immagine di Venere. Ritrovata a 70 cm dal flauto d'osso risalente allo stesso periodo, indica un singolare fermento creativo, commenta Conard. Stiamo cercando di capire il legame tra queste scoperte. I ritrovamenti a Hohle Fels delineano un comportamento sociale complesso, con aspetti simbolici, e concorda con le raffigurazioni ritrovate nella grotta di Chauvet, nell'Ardèche francese, le cui pitture sono state datate tra 33.000 e 29.000 anni fa, grazie alla datazione diretta, spiega l'archeologo, riferendosi ai test con il carbonio 14 sul carbone di legna utilizzato per il nero delle pitture. Sono quindi aurignaziane, proprio come i flauti, aggiunge Giacomo Giacobini, paleontologo dell'Università di Torino. La scoperta di Conard rafforza le idee sui comportamenti dell'uomo moderno. Si tratta di un'altra prova che è arrivato in Europa già con l'arte e con la musica. La scelta stessa del materiale è indice di abilità avanzate. Il flauto è stato ricavato dall'osso di radio del grifone, un rapace con un'apertura alare di circa 2,5 metri e quindi adatto alla manifattura di lunghi flauti. E quanto agli strumenti in avorio, la lavorazione è ancora più complicata. Si tratta di nuovi scenari che generano nuovi interrogativi. È difficile dire che la presenza della musica possa aver avuto qualche effetto su un'economia ancora di sussistenza e abbia contribuito a un maggiore successo riproduttivo, dice Conard. Tuttavia, la musica può avere contribuito alla coesione sociale e a nuove forme di comunicazione, promuovendo anche l'espansione demografica dei Sapiens rispetto ai Neanderthal culturalmente più conservatori. Ora è al lavoro per costruire delle repliche e decodificare le prime note dell'umanità. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marta Paterlini, Riscoprirò le melodie degli antenati Sapiens, dalla stampa del 22 luglio. A più di 60 anni dall'occupazione dell'Istria da parte della Jugoslavia, può capitare che una banale pratica burocratica riesca a riaprire la ferita. Il signor Romano Kramer ha denunciato la ASL di Milano perché lo ha pugnalato. Direte che non è possibile. Che negli ospedali e nei laboratori le persone vengono curate, sia pure non sempre col massimo della dedizione e della perizia, e non ferite. Ma Kramer ha ragione. L'azienda sanitaria gli ha conficcato burocraticamente un coltello nel cuore. Tutto è nato dalla richiesta di un certificato di invalidità civile. Richiesta accolta, invalidità riconosciuta. Sul documento però, denuncia Kramer, il mio luogo di nascita era indicato genericamente quale Croazia, estera. Ma come? Si è inalberato. Se sono nato nel luglio del 1946 ad Albona, in quella che allora era ancora la provincia di Pola, come osa un ufficio pubblico italiano a non riconoscere l'italianità secolare di Pola? A molti italiani del tutto ignari della storia, quelli che chiamano fiume col nome slavo di Rijeka e Lussin Piccolo col nome di Malilosini e Cittanova col nome di Novigrad, come fa perfino qualche guida turistica di case editrici rispettose del passato, il dettaglio sembrerà secondario. Cosa può mai importare a una persona se sulle sue carte sta scritto nato in Croazia o nato in Slovenia, se oggi i luoghi in cui venne al mondo sono effettivamente in territorio sloveno o croato? Invece, Romano Kramer ha ragione. Lo dice la legge 54 che nel febbraio 1989 chiuse la questione specificando subito all'articolo 1 che tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente nel rilasciare attestazioni, dichiarazioni, documenti in genere a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana e oggi compresi nei territori ceduti ad altri stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate e associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene. Punto e fine. C'è tuttavia qualcosa di ancora più importante della legge, il rispetto per il passato. Non c'è più Tito, non c'è più il comunismo, non c'è più la Jugoslavia che nacque scatenando contro gli italiani una sanguinosa pulizia etnica. Siamo in Europa. E vogliamo recuperare tutte le ragioni per stare insieme e sentirci fratelli. Ma la storia è storia. E il rispetto per il dolore di chi ha patito la cacciata dalla sua patria passa anche attraverso il rispetto di una piccola regola burocratica. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Gian Antonio Stella, La ferita riaperta, dal Corriere Magazine del 2 luglio.